facciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Ancora parliamo di graphic novel, bilanciata tra documentazione storica e fantasia creativa, e lo facciamo ritornando con un lavoro che è legato alle tragedie della Seconda Guerra Mondiale, con Gabriele Rossi, che è un giovane fumettista che ha prodotto questa ricostruzione per graphic novel di Terra di Nessuno, ovvero sia l'eccidio di Villa Rossi del 17 dicembre 1944, pubblicato nei Quaderni per la Storia di Castel Bolognese, ed è la ricostruzione drammatica di una vicenda che visse lungo la linea della resistenza che attraversava la Romagna. Morena Moretti ha raggiunto Gabriele per farsi dettagliare qualcosa in più su questo suo lavoro. Nasce dalla volontà del comune di Castel Bolognese di far conoscere appunto questi eventi e raccontarli in una chiave comunque un po' più fresca ai più piccoli. Quindi l'idea è proprio quella di riuscire a comunicare una storia comunque cruda, complessa nei suoi avvenimenti, una chiave di lettura un po' più semplice e un po' più pop. Quindi è un lavoro legato naturalmente alla memoria e al recupero appunto di storie che fanno parte poi della nostra identità anche di popolo. E tu hai scelto questo racconto? Non l'ho scelto, ho partecipato a un bando che si era imposto proprio l'obiettivo di contare questa storia in particolare. Quello che ho scelto è stato la catena di eventi, perché avevamo partecipato al concorso una serie di documenti e di libri, di memorie, dalla quale poter attingere, perché ognuno raccontava lo stesso avvenimento, però da un punto di vista leggermente differente, o metteva altre cose collegate, gli eventi magari che sono stati dei bombardamenti all'ospedale, invece raccontava dei rastrellamenti fatti in comune, quindi tanti tipi di documenti diversi, e stava al fumettista o comunque a raccogliere e creare la storia. Gabriele, vogliamo raccontare anche brevemente che cosa è successo? È praticamente il 17 dicembre del 44, il giorno dopo la liberazione di Faenza, e i bombardamenti erano cominciati da varie settimane nella zona qui intorno al Sino. L'esercito tedesco arretrò da Faenza in direzione di Imola. I territori sentivano già liberi, i castellani avevano già festeggiato la loro liberazione. Per cui svegliarsi la mattina del 17 ancora occupati, perché gli alleati si erano fermati proprio poco prima del segno per mancanza di armamenti, mentre pensava che gli alleati avessero dei rifornimenti a non finire, in realtà erano tutti dirottati per la guerra al nord, per la liberazione completa della Francia e della Germania. Arrestatasi la linea, i tedeschi incominciarono a costruire delle fortificazioni e il 17 particolare decisero di minare tutti gli edifici che si trovavano a entro 50 metri dalla linea del sud, in questo modo da liberare la linea di tiro e da evitare delle fortificazioni per eventuali spostamenti alleati e liberare la vista appunto. Caso vuole che in questi 50 metri rientrasse una casa coloniale chiamata Villa Rossi, dove nella zona di Biancaniglio. In questa casa dormivano tre famiglie, per un totale di 24 persone, di cui 6 bambini, più un piccolo comando tedesco e una trentina di ragazze cieche provenienti da un istituto per cieche di Bologna che stava sfuggendo dai bombardamenti della città. Queste vennero scollate durante la notte, fecero scollare anche queste ragazze. Non si sa perché non vennero fatti scollare, comunque non vennero avvertiti questa imminente demolizione anche chi si trovava nelle cantine a dormire insieme a loro, 24 persone, e venne poi minato l'edificio. La mattina stessa, usciti due o tre della famiglia Montanari per domare il bestiame, perché comunque erano contadini che abitavano nella zona e lavoravano ancora con il bestiame e le coltivazioni, si accorsero della dinamite o comunque dell'esplosivo posizionato nelle case, nelle linee circondarie, e nel tentativo di disattivarle vennero fatte saltare mentre stavano provando a tagliare i cavi. La casa crollarono sopra la famiglia. Questi qui sicuramente non sono morti nell'esplosione, ma sono morti o schiacciati dalle macerie o affogati nelle grandi botti di vino che erano sotto la casa, quindi una morte anche molto cruenta. Quindi tu hai scelto di raccontare questa storia da anche un particolare punto di vista, ce lo puoi spiegare? Il punto di vista che ho scelto di raccontare è stato quello di Lina Montanari, una delle sopravvissute di questo eccidio, che una ventina d'anni dopo l'accaduto ha raccontato poi alle nipoti la sua storia. Una ventina d'anni dopo, perché ha dovuto metabolizzare molto nel tempo, aveva già tenuto comunque un diario dove aveva annotato quello che era successo, e poi l'ha raccontato ed è stata la volontà della nipote poi pubblicare in una raccolta intorno al 2000 quello che era successo di tutto il racconto. Proprio lo scopo quindi di mantenere le celebrazioni che già venivano fatte per la memoria di questo eccidio. Esiste ancora la lapide a Biancanigo dove è successo e io allora ho deciso di usare il suo punto di vista perché è molto più personale e questo mi permetteva di entrare di più nelle emozioni dei personaggi, perché nel suo diario racconta proprio delle ritualità. Ad esempio, una cosa che mi ha toccato molto è come racconta della nonna, l'altra sopravvissuta, di come lei, perché soffriva di demenza e non ha un soggetto molto anziano, sull'ottantina, praticamente si è salvata perché stava seguendo i nipoti che stavano andando a controllare il testamento. Allora la nonna si è salvata perché automaticamente di abitudine seguiva i nipoti in quello che stavano facendo, senza sapere perché lo stesse facendo, e la stessa si è salvata perché la accudiva in questo suo fare gesti senza un senso compiuto. Gabriele, tu hai reso molto bene questo racconto in modo molto sintetico. È il tuo primo lavoro, puoi anche dirci le difficoltà che hai incontrato per riuscire a trasmettere non solo la storia, ma anche i sentimenti e anche l'umanità che c'è in queste persone? Per me è stato un viaggio estremamente toccante. E tuttora raccontarlo mi commuovo, perché sto leggendo tantissime delle testimonianze. Oltre a tutti i documenti, ho approfondito molto su come ci sono stati gli eventi bellici, altre testimonianze del territorio, tutte le lotte partigiane, e sono entrato molto nell'umanità di chi quei giorni li viveva, le varie difficoltà, il senso di vuoto, che è poi quello che ho cercato di trasmettere. E la difficoltà principale è stato riuscire a creare una storia comune, un filo che collegasse tutti, perché gli eventi sono stati tantissimi, ognuno è importante a modo suo, perché una cosa che succede studiando la storia a scuola è di avere in mente delle date e i prossimi movimenti di persone come se fosse una cosa scontata. Chi sono quelle persone? Perché sono persone, chi sono quelle centinaia, migliaia di storie completamente differenti che sono arrivate lì? E quindi per me è stato difficile riuscire a far capire i soggetti diversi che erano in gioco. Ed è stato molto difficile anche perché avevo solo una trentina di pagine per poterlo fare, dover tagliare tanti altri piccoli racconti che erano tutti a loro modo collegati. Gabriele, a me leggendo il racconto mi è venuto in mente quanto ci sia nelle persone che poi, anche nei soldati che restano anche sbandati, che ci sia appunto un'umanità di fondo, e mi è parsa anche una sorta di modo per riflettere anche sulle guerre di oggi, cioè quanto siano coinvolte le persone, quanto le persone possono anche essere innocenti pur trovandosi dalla parte del nemico. Sì, ho voluto proprio cercare di trasmettere questo, ridare un'umanità a tutti quelli che si trovano in una situazione di conflitto, in modo da modernizzarlo e dare un punto di vista di come si vede la seconda guerra mondiale, dove tedeschi diventa sinonimo di cattivo, mentre non è necessariamente così, dove la situazione non è bianca e nera, è anzi molto molto più grigia, e ciò succede anche nelle guerre di oggi, soprattutto nelle guerre di oggi dove il confine è ancora più sottile. Per quello che riguarda appunto diciamo i popoli, no? Quelli che sono vittime, anche spesso i soldati obbligati alla leva. Ma per quello che riguarda il tuo racconto, adesso la domanda è: ma questa Terra di Nessuno, questa graphic novel, la possiamo trovare, la possiamo leggere, la possiamo recuperare da qualche parte? La si può recuperare alla biblioteca di Castel Bolognese, sì? Innanzitutto. Poi tutte le biblioteche alle quali man mano sta venendo distribuita, dovrebbe essere già presente alle biblioteche di Imola e di Saenza. Saenza non è stato dopo l'alluvione, perché probabilmente era nella parte dello scritto della zona che era tra le parti colpite, quindi sì. Non so se sia ancora presente. Viene distribuita gratuitamente per volontà del comune, che si è sobbarcato tutte le spese di produzione, il comune di Castel Bolognese e l'associazione AMS, tengo a sottolinearlo, di Castello, durante le varie attività letterarie, praticamente una catena di libri su racconti del territorio, il castellano, di carattere storico. Ogni volta che c'è una pubblicazione in biblioteca, viene fatta una presentazione del libro, questi libri che vengono stampati dal comune vengono resi gratuiti e distribuiti gratuitamente. Thank you. Questa musica era di Piovani ed era la colonna sonora della Notte di San Lorenzo dei Fratelli Taviani, un film che parla di un'altra tragedia, un altro massacro della Seconda Guerra Mondiale, questa volta avvenuto in Toscana. Ma passiamo invece a tutt'altra cosa, al recital di Chiara Lagani, dell'Amica Geniale a Fumetti. Il nostro William l'ha intervistata e sentiamo le sue risposte. L'Amica Geniale a Fumetti, recital di e con Chiara Lagani, che è qua in diretta telefonica con noi. Ti chiedo come è nata questa idea di presentazione letteraria, tra l'altro a Fumetti, con delle intersezioni che anticiperai a proposito di questo lavoro, L'Amica Geniale. Ma l'idea era quella, proprio quando è nato questo lavoro, di mettere il pubblico nelle condizioni di entrare fisicamente dentro questo fumetto che io e Mara Cerri abbiamo pubblicato un anno fa, e che è un lavoro sull'amica geniale a partire dal famoso romanzo, appunto, di Elena Ferrante, che Fanny Alexander aveva già trattato in teatro, perché ne avevamo già tratto uno spettacolo che si chiama Storia di un'amicizia. Poi la famosa casa editrice di fumetti Coconino Press si è rivolto, cioè, ha chiesto a me, a Mara Cerri, se eravamo disponibili a trasformare in fumetto questa storia. Non c'era un fumetto ancora, credo che siano state fatte tutte le forme di questo libro, persino uno spettacolo di danza, il fumetto mancava, e così questo è il fumetto, diciamo, dell'Amica Geniale, tra l'altro è l'unico al mondo, stiamo anche traducendolo in tanti paesi europei e esteri. E come io sono solita fare quando faccio un libro, mi piace molto portarli in teatro per poter sempre intrecciare tutti i fili che tengo insieme, e così abbiamo ideato questo piccolo formato, che è un formato in cui io recito i testi di Ferrante e dietro di me scorrono le immagini leggermente animate da Luigi De Angelis dei disegni di Mara Cerri, e quindi è un modo proprio per lo spettatore per poter come entrare fisicamente in questo lavoro che abbiamo fatto, perché si trova dentro una storia in una maniera tridimensionale, ecco, quindi è un formato leggero però allo stesso tempo molto coinvolgente per il pubblico. Sì, anche perché essere coadiuvati nel seguire questa narrazione con delle immagini che tra l'altro hai appena confermato che sono, seppur in maniera lieve ma con una certa motilità, in movimento, ho capito bene? Esatto, sì, c'è un lavoro molto sottile, fatto un lavoro di montaggio musicale, proprio lo definirei, fatto da Luigi De Angelis, a partire dalle musiche che lui stesso aveva composto per lo spettacolo, che danno proprio una specie di interpretazione ritmica al testo, per cui è un lavoro, diciamo, che fa sì che il testo venga come assimilato dentro le immagini, rendendo come un corpo unico tutta questa dimensione. In più c'è anche il fatto che io in scena parlo in prima persona, come se fossi Elena Greco, quindi c'è questo leggero transfer, per cui lo chiamiamo recital, però è un po' più di un recital, nel senso che c'è quasi un personaggio che viene convocato, che è Elena Greco, che ci racconta la sua storia con Lila, insomma. Sì, poi è un racconto incentrato sull'infanzia e sull'adolescenza, ma ovviamente, siccome ha avuto anche una diffusione dal punto di vista letterario molto ampia, lo definirei assolutamente eterogeneo, per quanto riguarda il contenuto. Che ne dici, Chiara? Assolutamente, anche perché sappiamo il tipo di popolarità che sì, ha questo romanzo, sì, il successo che ha avuto. Infatti è sempre molto bello vedere come porta a teatro anche persone che non ci vanno, sia infatti per questo formato che per lo spettacolo. Abbiamo avuto un pubblico molto diverso dal solito, perché vengono i lettori a cercare, diciamo, il loro romanzo, molto bello. Tra l'altro siamo in scrittura del secondo volume, perché continuiamo e quindi ci sarà tutta la saga. Il primo volume, che è quello appunto che, diciamo, è al centro della narrazione dello spettacolo, già nasceva con l'idea di proseguire. Diciamo, sappiamo tutti che Elena Ferrante ha scritto 4 libri. L'idea di Coconino, che tra l'altro è tutt'uno con Fandango, che come forse sì, gli ascoltatori sanno, è anche colei che ha generato la serie, la famosa serie dell'Amica Geniale, che adesso pare che proprio stiano girando la quarta parte. Che amica sei, non tradirmi mai, gli amori vanno, tu resterai. Che amica sei, chiama quando vuoi, se hai bisogno di ridere un po'. Volando, noi aspetteremo. Thank you.